miliardo e 100 milioni di abitanti, fra questi più di 200 milioni di musulmani. Il caso indiano è in queste cifre. Molti di questi musulmani sono poveri, regioni intere sono abitate da comunità islamiche. A Mumbai ci sono quartieri, zone, slum di musulmani, nei quali il controllo dello Stato è tenue, dove le frange estremiste possono trovare appoggi, protezione, nascondigli, come pesci in un fiume. Per organizzare un attacco su vasta scala come quello di ieri sera nella più importante cosmopolita delle città dell'India, non occorre un complotto internazionale, una rete, un'organizzazione raffinata come fu per le Torri Gemelle di New York. L'attacco di ieri nasce e si sviluppa in India, forse trova qualche pericolosa protezione nel Pakistan incerto e mal governato, ma è negli estremismi congeniti del subcontinente asiatico che nasce, si sviluppa e colpisce.